9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno cari ascoltatori, in questo 15 di marzo auguri a chi si chiama Luisa. Oggi questo è il calendario liturgico. Abbiamo detto lanciando la trasmissione che ci occupiamo oggi dell'auto, e lo facciamo perché abbiamo, sono molto lieto di dirvi che abbiamo qui due ospiti che per me sono due punti di riferimento quando si tratta del mercato dell'auto e naturalmente dell'intreccio che la Fiat, la più che centenaria azienda italiana dell'auto, ha con il mercato mondiale dell'auto. E ve li presento subito perché è con loro, con particolare, ho aspettato giorni perché fossero disponibili e maturasse una condizione. Infatti sono qui con noi innanzitutto il vice direttore del Corriere Massimo Mucchetti, che è l'autore di una bellissima intervista che qualche giorno fa ha reso Sergio Marchionne al suo giornale e a lui, e nella quale l'avrete letta tutti, ma ve lo ricordo, all'ultima risposta Sergio Marchionne usava una metafora, una metafora di fortissimo impatto, usava un film, La scelta di Sophie, in cui la metafora è quella di una madre che deve scegliere tra quale figlia dare ai nazisti per lo sterminio, e di fronte a considerazioni sul fatto che il mercato europeo va molto molto molto male, andrà male di fronte a una sovraccapacità del settore molto forte, Marchionne concludeva questa intervista, in cui si toccavano tutti i punti dell'operazione Fiat Chrysler, dell'aumento nel capitale dell'azienda americana, eccetera, eccetera, dicendo però in queste condizioni di mercato, con questa debolezza europea e con questa sovraccapacità che non si riesce a risolvere in Europa, a differenza di quanto non sia avvenuto negli Stati Uniti, alla fine della fiera qua si produce in Italia nei 5 stabilimenti residui per esportare in America, oppure signori bisognerà scegliere cosa chiudere fino a 2 altri stabilimenti, l'implicita cosa che il primo era quello di Mirafiori. E quindi ringrazio e saluto Massimo Mucchetti per essere qui con noi, buongiorno. Buongiorno. E Riccardo Ruggeri è il secondo ospite. Riccardo Ruggeri, lo ricorderete, lo abbiamo avuto già ospite a questi microfoni, per me è un punto di riferimento per 3 ragioni. Primo, perché è un torinese torinesissimo, figlio di portinai, che in Fiat ci è entrato come operaio e che dal basso è asceso fino al comitato strategico della Fiat e fino a portare in Fiat quel gioiello, dopo averselo portato, averlo trasformato, averlo ristrutturato, che era New Holland, che ancora oggi si chiama CNH, quindi fa le macchine agricole e fa profitti a go-go nel gruppo. E questa è la prima ragione. Seconda ragione, perché uno che dell'auto sa tutto, a cominciare dalle viti, perché l'ha amato e ha continuato a amarlo quel mondo. Terza ragione, perché in questi anni, pur essendo manager di prima fila Fiat, ha parlato sì più volte, ha scritto anche un libro, La parola di Marchionne, dedicato all'argomento, però in realtà siccome fa l'editore, ne abbiamo parlato già una volta, fa un editore con una piccola iniziativa, che è una grande iniziativa perché dedica poi i suoi profitti a fini umanitari, a un grande medico che si impegna per donne in punti particolari del mondo, per così dire, vittime degli uomini oltre che della storia, ne ha scritto però sempre con un certo riservo, tranne che oggi, proprio oggi, ha deciso di uscire da questo riservo e di trattare con una certa libertà e profondità l'argomento appunto Fiat, e lo ha fatto nella rubrica, lui ha una rubrica quotidiana su Italia Oggi, e questa rubrica ha grande successo su Italia Oggi, e oggi trovate appunto questa rubrica nella quale espone una tesi che è al centro della trasmissione di oggi. Grazie quindi a Riccardo Ruggeri. Grazie a voi. Allora io do semplicemente qualche numero di come stanno messe il mercato dell'auto nel mondo, prima di cominciare con Riccardo Ruggeri che ci espone la sua convinzione, che sta dietro, per così dire, l'intervista resa a Massimo Mucchetti, e poi lascio a loro due l'approfondimento del tema su come si debba comprendere e giudicare la parabola Fiat rispetto al mercato mondiale. Allora, se andiamo a vedere i numeri delle 3 macro aree del mondo, la debolezza europea è una debolezza che era e resta molto molto molto forte. Per capirci, nel 2007 vendevano in Europa estesa, per così dire, perché bisogna comprenderci anche Russia e Turchia, si vedevano 16 milioni di automobili nel 2007, sono diventate 14.7 milioni nel 2008, 14.5 milioni nel 2009, 13 milioni e 7 nel 2010, nel 2011 13 milioni e 5. Ecco, le previsioni per il 2012 per l'effetto della crisi di portafoglio del reddito disponibile degli europei a seguito della crisi dell'eurodebito, c'è una forbice di previsioni, a dirvi la verità, molto ampia. Sono andato a rivedermi le previsioni, diciamo che però sono tutte col segno meno. Si va, nella migliore delle ipotesi, da un'ulteriore contrazione del mercato a meno 2% rispetto al 2011, alla peggiore, che è addirittura quella dello scenario del default europeo, che mi sembra sia stato però, per fortuna, evitato, che era del meno 7%. In altre parole, lo scenario peggiore era quello di vendere 12 milioni di automobili nel 2012 rispetto ai 13 milioni e mezzo del 2011, ma in ogni caso nessuno se la sente di dire che si va di molto oltre sopra i 13 milioni. Quindi siamo comunque dai 16 milioni del 2007, restiamo ai 13 milioni del 2012, e guardate che lo scenario per gli anni successivi, per il 2013, è ancora peggiore di quello del 2012 per tutti i maggiori centri di analisi. Quindi questo è uno scenario in Europa che porta alle seguenti conclusioni. Le case mondiali che hanno una quota di dipendenza dal mercato europeo molto elevato sono quelle che in ogni caso hanno un problema maggiore, perché rendetevi conto che rispetto a queste previsioni di vendita, al massimo 13 milioni, nei 113 stabilimenti automobilistici che oggi sussistono nell'Europa ampia, sono 113 stabilimenti, si possono produrre fino a 21-22 milioni di auto. Ecco, questo per darvi un'idea della percentuale di sovraccapacità che c'è in Europa. Ricordo che nell'anno alle nostre spalle a chiudere sono stati due soli stabilimenti, quello di Termini Imerese della Fiat e quello di Anversa della Opel. Sono in preavviso di chiusura uno stabilimento della Saab, uno della Volvo e uno della Mitsubishi in Olanda. Ma la valutazione per eccesso di dipendenza da un mercato europeo così contrassegnato da crisi di molti analisti di settore è che, in parole povere, Fiat, Opel di GM in forte crisi, PSA, Peugeot, Citroën e Renault, che dipendono per quote troppo elevate dal mercato europeo. La Citroën dipende dal mercato europeo per il 62%, la Opel è all'87% in Europa, la Peugeot è al 48% in Europa, la Fiat è al 46% delle sue vendite in Europa. Sommate queste quattro aziende devono tagliare almeno 1,5 milioni di capacità produttiva. E quindi queste sono le valutazioni che ho trovato sull'ultimo numero di Automotive News, c'è un po' la Bibbia di riferimento per il settore, e quindi qui però è una loro valutazione. Come minimo loro si aspettano la chiusura di uno stabilimento Fiat, due stabilimenti Peugeot Citroën, due Opel, di cui uno in Germania e uno nel Regno Unito, e uno della Mitsubishi in Olanda. Naturalmente l'aggiunta di Automotive News è che nessuno si aspetta chiusure in Francia prima delle elezioni europee, prima delle elezioni, perdonatemi, francesi, che si svolgono primo turno 22 aprile, secondo turno due settimane dopo. Sapete che Hollande, il socialista, è in testa nei sondaggi, e che Hollande è fortissimamente contrario alla chiusura degli stabilimenti. Però questa è la situazione, nella quale invece poi il primo mercato mondiale resta la Cina. Sulla Cina si avvantaggiano in pratica i due contendenti, sono Volkswagen, che è il vero brand mondiale in fortissima ascesa con i suoi 10 marchi e che è diventato il numero 2 al mondo nell'anno scorso. In Cina si vendono 14 milioni e mezzo, più vicino ai 15 nelle previsioni del 2012, dopo i 14 14 milioni e mezzo di unità nel 2011. Gli Stati Uniti hanno avuto un 2011 in cui si è avuto un quasi più 10% di vendite di auto, quindi la ripresa americana ha funzionato abbastanza per il rilancio, e in questo rilancio c'è stata l'operazione Chrysler, che ovviamente, alla quale ovviamente Fiat si è agganciata. Ecco, ma queste cifre per avere lo sfondo, semplicemente lo sfondo della tesi che oggi Riccardo Ruggeri lancia. E questa tesi, spieghiamola, Riccardo Ruggeri, è che all'operazione Fiat in Italia con i suoi stabilimenti dovremmo forse guardare con un altro occhio da quello che fino a questo momento il dibattito italiano gli ha riservato. Mi taccio e passo la palla a te e a Massimo. Ma io anzitutto una premessa: è alcuni anni che io scrivo sull'industria dell'auto e su Fiat, ho scritto un libro, una ventina di articoli in cui ho espresso un pensiero più da investitore, non mi considero uno specialista ma un investitore. La crisi violenta di questo comparto secondo me ha avuto una ricaduta positiva, ha fatto chiarezza sulla gerarchia dei valori. Ormai ci sono solo più due al comando, escludo i coreani, e sono Volkswagen e Toyota. Tutti gli altri sono in un gruppone di centro che si agitano, si alleano, si separano, alcuni che sono quasi bolliti chiedono l'aiuto dei governi. Il modo per analizzare questo problema io l'ho individuato in quello che si chiama la legge del ciclo di rinnovo. Prima degli anni 90 le automobili venivano sostanzialmente giudicate tutto ciò che c'era sopra dell'automobile, all'esterno, lo stile e quello, e l'interno era visto se era veloce o non veloce. Quelli della mia generazione amavano le belle macchine, amavano le macchine veloci. Da allora, dopo gli anni 90, il cliente ha cominciato a capire, per un'infinità di altri motivi, che era importante vedere cosa c'era sotto la carrozzeria. E le aziende hanno lavorato in quella direzione, hanno creato quello che si chiama appunto il ciclo di rinnovo. Il ciclo di rinnovo consiste sostanzialmente in tre cose che interessano al cliente: l'innovazione, qual è il tasso di innovazione che c'è dentro, la qualità, in modo che l'automobile non si fermi mai e non abbia necessità di manutenzione, e i costi di esercizio per il cliente. Ecco, sulla base di questo le aziende automobilistiche lavorano, e lavorano pancia a terra in continuazione, perché il processo è un processo continuo, quello del ciclo di rinnovo. Ogni tanto, ogni 3-4 anni, tutto ciò che hanno messo a punto qualitativamente, innovativamente migliore, lo portano sul modello, e il cliente non se ne accorge neppure di tutto questo, lo capisce nel funzionamento. Ecco, poiché tutto questo costa una non voglio dire una paccata, ma una quantità enorme di quattrini, che cosa significa saltare un ciclo? Saltare un ciclo significa indubbiamente fare dei risparmi, c'è poi chi questi risparmi li investe in acquisizioni, in dividendi, in bonus per i super manager, e spera di recuperare. In realtà, quando ne perdi un certo numero, tu non recuperi più, questo almeno è il mio pensiero, perché i leader, stiamo parlando dei due che dicevo prima, non hanno mai mancato un ciclo, possono avere fatto degli errori di prodotto, ma non hanno mai mancato un ciclo. E allora che cosa fanno le industrie, diciamo, follower, no? Non i leader? Ti interrompo solo per rispiegare a chi a casa, in sintesi. Compiere il ciclo significa investire molto, fare quindi poi molti quattrini con molto che si è investito in prodotti che hanno un'elevata intensità di investimento più elevato raggiunto in tecnologia, non è solo il restyling esterno del modello, e però con quei soldi che ci si fa reinvestirli sopra per un altro ciclo. Per capirci, Volkswagen ha annunciato ieri profitti per più di 15 miliardi di euro e da quindi 7.500 euro di bonus ai suoi 90.000 dipendenti tedeschi. Ti ho interrotto, andiamo avanti. Ecco, allora che cosa fanno i follower? Tentano le alleanze, quindi disegnano scenari fantastici, progetti visionari, gran sfarfallio di consulenti, di analisti, fanno degli aumenti di capitale, si eccitano i media e i governi, c'è la frase classica che si sente sempre: risparmieremo 2, 3, 4 miliardi sugli acquisti comuni, più o meno come fanno gli istituti previdenziali quando si dice che si mettono insieme. In realtà gran parte di queste alleanze falliscono. Come si dice adesso in questa settimana, ci hanno detto Peugeot e General Motors. Esatto, adesso sono appena partiti, quindi siamo nella fase dell'eccitazione dei media. I leader di tutto questo non ne hanno bisogno, ne hanno bisogno quelli che hanno il trucco sfatto, per dirla in termini brutali. Io mi fermo. Se vuoi vado avanti. La tesi naturalmente è che la Fiat ha saltato i cicli, e questo ci siamo capiti, le conclusioni sono che non saranno le alleanze eccetera eccetera. È capitata una serie di cose che però è capitata anni fa ed è inutile far finta di niente. Mucchetti, qual è la tua opinione innanzitutto su questa diagnosi, poi vediamo dove ci porta e su cosa si può fare diversamente. Sulla diagnosi sono d'accordo, e il fenomeno che Riccardo Ruggeri ha illustrato può essere letto anche vedendo lungo una serie storica ampia, diciamo 20 anni, 25 anni, l'incidenza degli investimenti e delle spese per ricerca e sviluppo sul fatturato e sul valore aggiunto che viene generato da ogni dipendente. Noi vediamo da questo punto di vista che il paragone fra Fiat e Volkswagen, in origine le due case europee più simili, sto parlando degli anni metà anni 80, l'era di Ghidella, quando la Fiat primeggiava, esatto. No? Ecco, se uno va a vedere che cosa è accaduto dopo, scopre che la Volkswagen per tanti anni, cioè non 2, 3, 4, per un'infinità di anni, ha reinvestito pressoché per intero e talvolta anche un po' più che per intero il proprio cash flow, cioè l'autofinanziamento, i soldi generati dalla gestione, in spese per ricerca e sviluppo e in investimenti. La Fiat lo ha fatto in modo assai più altalenante, per parecchi anni dirottava verso altri settori, le diversificazioni, il grasso, no, la famosa diversificazione di portafoglio e quant'altro, in altri momenti comunque tirava la cinghia perché le cose non andavano bene e però dava i dividendi e non avrebbe dovuto darli, eccetera eccetera eccetera, finché si è trovata, e qui è la storia degli ultimi 10-12 anni, a dover mettere nell'auto un fracco di quattrini, ma tanti, ma ormai quando, come dire, si era bucato il lavandino e quindi l'acqua continuava a fuoriuscire, tu riempivi e perdevi. Quando si dice che la famiglia Agnelli non ha mai messo soldi nel, si dice una cosa, diciamo così, la famiglia in quanto tale ne ha messi relativamente pochi, no? Ma il sistema Fiat, nel sistema Fiat Auto, ne ha messi tanti, purtroppo li ha buttati via, perché i soldi bisogna anche metterli nei tempi e nei modi dovuti, che sono quelli che ci ha ricordato prima Ruggeri, cioè con una certa disciplina e continuità. La Fiat è stata discontinua e ultimamente nell'era Marchionne ha tagliato drammaticamente gli investimenti in nuovi modelli. E quando ha fatto vedere i risultati, spremeva nel 2007-2008, spremeva i risultati, diciamo spremeva quei modelli che erano stati impostati in precedenza, poi non ha più fatto niente. Allora, questo è il problema, e si è salvata complessivamente come gruppo con i discreti risultati della Chrysler. Ora, se andiamo in America e confrontiamo la Chrysler, fatte le proporzioni con GM e con Ford, la Chrysler oggi va meglio di prima, ma meno bene dei suoi competitor americani, e poi bisognerebbe riuscire a vedere, io questo non sono stato in grado di farlo, come vanno le altre grandi case internazionali insediate negli Stati Uniti relativamente alle proprie attività. Voi sapete che per tanti anni il marchio più venduto in America è stata la Toyota, mica una delle tre di Detroit. Certo. No? Ecco, quindi in America le cose sono andate meglio per una ragione proprio brutale, che nel 2008-2009, gli anni della crisi più buia, il mercato americano da 17 milioni di macchine è sceso a 9 milioni. Esatto. No, di macchine comprate dagli americani. In contemporanea le grandi case americane hanno drammaticamente tagliato la propria capacità produttiva, hanno chiuso un gran numero di stabilimenti, mica uno o due. Quello che in Europa non si riesce a fare. Ma questo non è un titolo così di demerito. No, ma sto mica dicendo a te, quando sento alla gente che gode, no, perché si chiudono le fabbriche, io direi calma un attimo, vediamo se riusciamo a evitare questo nei limiti del possibile, naturalmente, quindi senza credere ai miracoli, no, ma cercando di fare delle operazioni intelligenti, no, in modo da evitare il danno alle, perché chiudendo e smantellando più di tanto si corre anche il pericolo di distruggere le competenze. Ah, certo. E le competenze non si ricostituiscono in due giorni. Se la Volkswagen comprerà la Ducati, la Volkswagen attraverso l'Audi, potete star sicuri che non toccherà niente a Bologna e che farà soltanto il bene della Ducati. Della Ducati. Perché? Ma perché a Bologna, a Borgo Panigale, ci sono delle competenze formidabili nelle moto. Maturate lì, e che non è che dice le smantelliamo Ma lei per che gli frega di spostarle, cioè, c'è il valore aggiunto. No? Se invece la Ducati fosse soltanto un marchio con dentro niente, sarebbe più difficile, più complicato. Cioè la Volkswagen ha preso la Skoda in Cecoslovacchia. Lo chiamo ancora Cecoslovacchia, nella Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca. Ecco, la Skoda era una fabbrica, una conglomerata meccanica di grandissima tradizione, ma ha avuto 50 anni di regime comunista alle spalle, era diventato un cesso a pedale. Esatto. Faceva le macchine più brutte del creato. E in mano alla Volkswagen, in 10 anni fa 1 milione di macchine. Infatti è diventato uno dei 3 mass brand, oltre a Volkswagen, Skoda e Seat, delle 10 del gruppo. Esattamente. E nella Repubblica Ceca si produce 1 milione di macchine, in Italia 500.000. Sì. Ecco, allora il problema aspetta, ti fermo qua prima di dire le mani adatte. Prima di dire il problema è, perché siamo arrivati a un bivio nel quale io non è che voglio dire chiudiamo gli stabilimenti, ma dico che quando abbiamo un numero di stabilimenti in Europa che ne possiamo fare 21 milioni e il mercato nella migliore delle ipotesi ne piglia 13, c'è un problema. Gli americani con i soldi pubblici, per essere chiari, hanno ristrutturato, però hanno ristrutturato in maniera tale da consentire alle aziende di farsi dei conti, per cui si torna profittabili, sapendo che ti avvicini, che resti meno lontano rispetto agli oneri che paghi per avere stabilimenti dipendenti che però poi non hanno prodotti da vendere al mercato. Noi in Europa continuiamo a non farlo, abbiamo questo eccesso di capacità produttiva e adesso andiamo in pubblicità, ma quando torniamo c'è il bivio, perché c'è da una parte la conseguenza di quello che è successo in Fiat per non aver fatto quello che ci dice Riccardo Ruggeri, cioè aver saltato troppi cicli di investimento, profitti e reinvestimento. Dall'altra il problema è, c'è un'alternativa a quella di semplicemente chiudere e perdere le competenze, come ci ha appena detto Massimo Mucchetti, perché attenti, perché perdere le competenze è una roba da cui puoi tornare indietro, e come dopo il comunismo deve aspettare e soprattutto nel caso italiano è una competenza radicata nella storia del nostro modello produttivo, e c'è un indotto automotive che è vero che negli ultimi anni di crisi si è abituato a lavorare per i concorrenti, però insomma c'è un'alternativa, sì c'è, forse c'è, e ci torneremo appena finita la pubblicità. Eccoci tornati qua, 30 secondi per l'appuntamento quotidiano con l'azienda che chiude, purtroppo, aziende che chiudono perché lo Stato non capisce, io dico anche Stato nemico, talvolta dico anche Stato ladro, me ne prendo la responsabilità, penso che sia questo, quando le pretese fiscali salgono così violentemente come avviene sempre più negli ultimi anni, perché c'è un problema di debito pubblico, di deficit pubblico, è giusto, ma quando lo Stato però non si rende conto delle conseguenze e non cede nulla del proprio portafoglio per abbattere il debito pubblico, le conseguenze sono che aziende che già stentavano tanto per stare sul mercato con questo assolvimento di doveri e oneri amministrativi vanno fuori mercato e chiudono. E l'esempio di oggi è un esempio da far riflettere, quando penso di non sbagliare dicendo che c'è uno Stato nemico. Eccoci qua, e a scriverci è un vicepresidente di un'impresa, sta nelle trafilerie siderurgiche, nave Brescia, culla della cultura imprenditoriale del ferro, protagonista della ricostruzione post bellico e del miracolo economico a seguire. L'azienda nostra sorge nei primi anni 60 del secolo scorso, azienda povera di trasformazione in trafilatura del ferro acciaio a freddo a servizio della filiera che porta l'edilizia, e la cugina povera delle aziende siderurgiche, certo. Poco il valore aggiunto, vero. Forte il rischio per l'esposizione, ci scrive l'imprenditore, verissimo. Ma se il fieno viene mantenuto in cascina quando va bene non si disperde, cose strane, allora si può crescere. Mai un insoluto, ovviamente. finché si è potuto, perché essere stimati dalle banche è obiettivo rinunciabile per avere il credito. Arriva il momento e il salto si fa, ci crediamo. Stabilimento nuovo, 27.000 metri di area, capannone più uffici, altri 11.000. Siamo alla faccia del 2009 e arriva la crisi. E non solo. Il calo del prodotto venduto, infatti, nel nostro settore potrebbe essere il 30%. È già tanto, ma ce la possiamo fare. Ma il settore ne perde il 70%. Perché? Perché il prodotto viene messo fuori norma dal decreto 14 gennaio 2008 in vigore dal luglio 2009. Seguo una lunga cosa di spiegazione di che cosa ha fatto l'associazione di categoria, il settore, eccetera, eccetera. Dopodiché arriviamo alla fine all'opera magica di riparazione da parte dello Stato. Nuovo decreto 15 novembre che dal 19 dicembre 2011 riabilita con il pieno diritto il prodotto che 2 anni e mezzo prima aveva solennemente cassato. In questi 2 anni e mezzo noi siamo morti, purtroppo, ci dice l'imprenditore, il vicepresidente di questa trafileria. E la conclusione è: grazie Stato, sappiamo noi del settore quanto in questo caso la sigla di Stato nemico possa essere purtroppo appropriata. Intanto abbiamo salutato i nostri 15 dipendenti, dei quali molti avevamo visto ragazzi in azienda. Non ce la sentiamo ora per di licenziarli, per risparmiare sul TFR che maturerà invece per il periodo di cassa in deroga, e avranno dunque tutto l'anno davanti per gli ammortizzatori sociali. Ma per noi che andiamo in chiusura, è una amara, ben amara considerazione. Domani, 15 marzo 2012, quindi oggi, tutti quanti insieme, i soci del notaio, per l'assemblea della società, a deliberare la procedura di una triste, tristissima liquidazione. Ecco, questa è la lettera della giornata. Ridò la parola a Riccardo Ruggeri per arrivare alle conseguenze per Fiat di aver saltato i cicli e poi per vedere quali conseguenze ne discendono per gli stabilimenti e se c'è un'alternativa per non perdere la cultura dell'auto, come ci richiamava Massimo Mucchetti. Riccardo. Ma innanzitutto vorrei fare un piccolo inciso su quello che ha detto Massimo, e cioè noi spesso siamo portati a trascurare l'aspetto umano. Cioè queste grandi, l'automobile, che è una grande organizzazione di uomini prima di tutto, deve funzionare, a mio modo di vedere, quelle di successo, leader, funzionano come l'orchestra dei Berliner, dove al limite si può cambiare il direttore, ma il direttore dà solo un quid. La differenza tra Abbado e Ansel è una cosa abbastanza limitata, perché è l'orchestra che tiene in piedi il business, e i leader, se vediamo il caso Volkswagen, il caso Toyota, sceglie anche in giro per il mondo il massimo per creare questa ampissima squadra. Quindi questo è un altro tema che porta al fatto che il rinnovo, i cicli di rinnovo, che sono un processo continuo, abbisognano anche di persone che siano molto legate come squadra. In parole povere, quando la Fiat cede i 70 grandi progettisti di motori, eccetera, eccetera, e più della metà se li prende General Motors a Torino, perde un pezzo dell'orchestra. Poi va bene, può avere un capo orchestra geniale a Marchionne, però perdere quei pezzi d'orchestra è un bel disastro. Certo, è un po' come Pirlo, no? La stessa cosa è successa in quanto General Motors, che ha aperto un ufficio a Torino, ha guadagnato in pochi anni i tanti anni in cui era indietro in termini del ciclo. Per rispondere alla tua domanda, che cosa fare, no? Allora, io penso che sia finito il tempo delle chiacchiere, delle grandi strategie, di fare discorsi alati sul futuro e cose di questo genere. Io credo che bisogna prendere atto delle scelte strategiche che sono state fatte da Fiat Auto in questi anni, e non mi riferisco solo agli anni di Marchionne, ma vado indietro almeno di 15 anni. Infatti, quindi, Mucchetti parlava dei tempi di Ghidella, è lì che c'era. Assolutamente. Tutto ciò che è successo dopo Ghidella è fuori dallo schema classico di diventare leader. Quindi prendiamone atto di tutto questo, lasciamo perdere ciò che scrive l'Economist, che l'auto è il simbolo della virilità nazionale. Bisogna parlare di politica industriale, ma limitata a ciò di cui si può parlare. Allora, prima di tutto, secondo me, bisogna escludere che si vogliano difendere con quattrini pubblici dei posti di lavoro che il mercato ha da tempo cancellato. Questo non c'è più nulla da fare su questo, possiamo fare tutte altre cose ma non certo questo, cioè molti vivono solo per il bocca a bocca della cassa integrazione. Concentriamoci invece sul fatto che diventeremo, l'Italia è diventata e diventerà ancora di più, rimarrà un grande mercato, indubbiamente, rimarrà un grande mercato, però avrà stabilimenti di montaggio. Oh, stabilimenti di montaggio per preservare la cultura produttiva dell'auto, e senza dimenticare che la Gran Bretagna, che non ha più da molti anni una propria casa automobilistica nazionale, produce molto più in stabilimenti di montaggio, produce per grandi gruppi mondiali, tutti praticamente, più auto, molte più auto di prima, ne produce molto più di noi, ovviamente, è il terzo mercato europeo come produzione di automobili, preservare stabilimenti di montaggio, perché, dice Riccardo Ruggeri, per via del salto dei cicli di investimento e reinvestimento che la Fiat ha fatto prima di Marchionne, e nel frattempo perché Marchionne con l'America, in America chi ha messo i soldi si è comprato la Fiat, quindi se l'è presa il contribuente americano Obama, e quindi inutile che stiamo lì a non far vedere che la Fiat oramai è americana, inutile quindi qui litigare per mettere denaro pubblico e impedire la chiusura di Fiat e di altri stabilimenti, però la politica industriale deve offrire gli stabilimenti e la cultura dell'automotive italiano a concorrenti. Questa è la conclusione di Ruggeri. Mucchetti, che dice? Ma ricorderò una cosa. Uno degli interventi che avevamo fatto sul Corriere, che aveva destato il maggiore entusiasmo da parte dei lettori, fu quando 3 anni fa Marchionne era uscito rilevando come il mito dell'Alfa fosse un mito, Alfa Romeo, un po' impolverato, che la 159 non era stata un successo, eccetera, eccetera. E allora, adesso non vorrei ricordare male, ma la produzione era scesa sotto le 100.000 unità. Era così. Ora, ecco, in quella circostanza scrivemmo una cosa di una banalità totale, ed era: se dopo 20 anni di gestione Fiat l'Alfa è scesa a 100.000 pezzi e dai 400.000 che aveva in origine, forse è arrivato il momento di venderla a chi vuole e può farla migliorare, esatto. Perché il marchio Alfa ha ancora un allure che gli viene riconosciuta nel mondo, ma non, c'è tra il marchio e la realtà delle macchine c'è una notevole differenza, no? Deludente. Deludente, però finché il marchio ha l'allure, tanto allora, vale utilizzarlo. Dicevamo, vendetelo finché siete in tempo, no? Naturalmente la cosa aveva suscitato l'entusiasmo degli alfisti e nessuna reazione ovviamente da parte della casa, perché la casa ci ha detto: noi col marchio Fiat, proprio perché ha tutte queste caratteristiche, lo mettiamo a posto e lo useremo come testa d'ariete per andare negli Stati Uniti. E uno dice: ma insomma, ho passati 3 anni, la produzione dell'Alfa è scesa a 50.000. Sì. Allora, ricordo tutti che Marchionne aveva detto per Alfa e Lancia per ciascuna 300.000 unità per ogni. Esattamente, per la gente quando dice che uno consegna i risultati, boh, insomma dipende che cosa stiamo parlando, no? Ecco, allora io capisco che sia difficile, perché la coperta di Marchionne, bisogna anche capire la sua intima razionalità, è estremamente corta. Lui non ha i soldi per investire, perché quando tu non hai ancora messo in moto un meccanismo che genera la cassa, i primi soldi qualcuno te li deve dare, se no dal nulla non nasce nulla, no? E allora a me viene in mente la storia della Mini. La BMW aveva preso 2 case, la Rover e la Mini, 2 marchi, la Rover e la Mini. Sulla Rover si è schiantata, nel senso che ha perso un sacco di soldi, e sulla Mini ha fatto quello che ha fatto, cioè il più clamoroso caso di rilancio di un marchio praticamente messo peggio di come è messa oggi l'Alfa. Sì. Allora dico, non per la Fiat o per la famiglia Agnelli, o per i soci della Fiat, ma per l'Italia, sarebbe augurabile che la Fiat proseguisse con i suoi marchi Fiat, Lancia e quello che crede, diventando una succursale della Chrysler e ambendo, se va bene, quando l'Europa si riprenderà un po', perché non è che rimarremo sempre dove siamo, no? A diventare una specie di Repubblica Ceca, che fa il suo bei montaggio, una Spagna, un'Inghilterra, e va bene, poteva andare diversamente, è andata così. Ma vogliamo almeno controllare con la Volkswagen, che non ha mai nascosto di volere l'Alfa e che ha fatto anche intendere che ne vorrebbe fare 500.000, se queste 500.000 Alfa le vuole fare in Italia o le vuole fare in Germania, allora, o in Cina. Ti fermo qua, perché la conclusione di questo ragionamento, per il momento adesso c'è il minuto dell'informazione stradale, che è convergente, di Ruggeri che dice la Fiat da 20 anni ha fatto altre scelte ed è inutile che ci mettiamo qua a dire che possiamo tenere tutto aperto così com'è, e Massimo Mucchetti che ha sempre criticato questa stessa cosa e però si batte perché ci sia l'energia per tenere la cultura dell'automotive in Italia, è convergente. La convergenza di questa roba è: Fiat, va bene, quello che vuoi, stavolta chiuderai, però serve alla difesa della cultura dell'auto in Italia il fatto che tu vada a esperire l'ipotesi di vendere Alfa Romeo a Volkswagen, che da sempre è interessata, perché a quel punto noi ci teniamo da subito un'ipotesi di stabilimento, di montaggio, di rilancio di un grande marchio italiano, che a quel punto ha più chance di avere la testa anche in Italia, ma inserita nell'ambito del gruppo mondiale in più forte crescita, perché c'ha 10 brand, fa un pacco di soldi in Cina e li fa sia nel segmento premium con Audi, ma anche integrata nei segmenti, diciamo così, popolari di massa, e a quel punto si preserva la cultura e la capacità di fare auto e i dipendenti dell'auto in Italia, senza più che perdiamo tempo nel fatto di dire Marchionne, la Fiomma, eccetera eccetera eccetera. Guardate che una cosa nuova, potente, forte, a me, devo dirvi la verità, piace, perché è mercato ed è realismo. Strade. Ed eccoci tornati in studio, mentre tornano i Doors, l'apertura e chiusura come tutti i giorni. Allora, Riccardo Ruggeri, l'ipotesi per difendere con il montaggio la cultura dell'auto in Italia, dicendo a Fiat, ma perché non provi a vendere Alfa Romeo a Volkswagen, è un'ipotesi percorribile, realistica secondo lei? Ma secondo me sì, e oltretutto c'è anche un altro aspetto, che noi tutti presi dall'auto, dal nome Fiat, Chrysler e così via, dimentichiamo che in Italia abbiamo una delle industrie più eccellenti nel campo della componentistica, appunto veicolistica, e ne avrebbe evidentemente un grande beneficio avere un secondo costruttore nazionale, perché, ripeto, l'industria della componentistica italiana è un'industria eccellente. Mucchetti, a tutto questo, perché nel dibattito pubblico italiano, in grandi media, eccetera, eccetera, abbiamo dato così tanto peso prevalente, insomma, alla questione fondamentale, per carità, delle relazioni sindacali, delle scelte che ha fatto Fiat rispetto a tutto il resto delle aziende italiane, e però così poca poi attenzione a questi numeri, a questi fatti, e invece di guardare retrospettivamente sempre allo specchietto retrovisore, come sarebbe bella la storia controfattuale, certo, come sarebbe bello se la Fiat avesse evitato diversificazioni disastrose, avete fatto non avesse dato retta alle banche che hanno fatto poi tramite Fiat entrare EDF sul mercato dell'energia italiana e così via, ma di fatto perché così poca attenzione poi ad alternative come queste fattuali, che sono quelle su cui la politica industriale dovrebbe concentrarsi, invece che pensare diamo soldi per difendere tutto com'è che indifendibile. Ma ti ringrazio di questa domanda, perché mi fa sentire un po' meno solo, ma perché parlare di queste cose è difficile, parlare di queste cose significa mettersi talvolta in una posizione solitaria, di contrasto con interessi più ampi, e quindi diciamo così, bisogna magari rivedere determinate pregiudizi ideologici. Pregiudizi ideologici e prendere gli schiaffi, ho capito. Allora, non è che sono poi tanti che hanno voglia di fare questo sport, no? Vabbè. Ma lì la cosa che secondo me andrebbe fatta, perché poi dopo non bisogna neanche farla troppo facile, e dagli autorevoli microfoni di Radio 24 alimentare illusioni. L'idea di vendere la Volkswagen. Radio 24, la passione si sente.